Spero proprio che non vi sia sfuggito un trafiletto pubblicato sul Corriere di lunedì scorso in una rubrichetta che si intitola Uomini e Media. Vi si riferisce di un manifesto firmato da una quindicina di politici e giornalisti oggi vicini al polo, ancorché provenienti ab origine da tutt'altri schieramenti. Costoro mettono le mani in avanti e invitano a diffidare della gigantesca ondata di Gattopardi e Voltagabbana che si apprestano ad aderire nella previsione di un trionfo e della connessa capacità di elargire sostanziose prebende a quella parte politica. E di fronte alla sgradevole prospettiva di dover fare a pugni con un esercito di parvenu, i firmatari, che si considerano, a quanto mi è sembrato di capire, dei Voltagabbana di vecchia data, quindi sperimentati e degni di fiducia, dichiarano di non voler rivendicare primogeniture di Onescampi, ma di sentire il bisogno di riunire chi ha il torto di aver avuto ragione, letterale, e oggi non può salire sul carro dei vincitori perché di questo carro rappresenta le ruote motrici. Personalmente non ho familiarità con tutti i firmatari di quel documento singolare. In realtà ne conosco soltanto uno, un collega, chiamiamolo così, che molti anni fa arrivò giovinetto qui a Radio Popolare sull'onda, come si usava allora, di una militanza politica nelle file della sinistra estrema e non tardò a riciclarsi in Rai sotto l'egida del classismo rampante. Lì si era specializzato, mi sembra, nella laudazio della figura e delle imprese del sindaco Pillitteri ed era stato ovviamente travolto, come tanti, dalla valanga di Mani Pulite, nel senso che una volta allontanati dal potere i suoi referenti garofaneschi lo avevano messo un po' nell'angolo. In effetti era da parecchio che non lo sentivo nominare, non che me ne dolessi naturalmente, e non sapevo che in non disprezzabile coerenza con la sua passata carriera fosse finito dalle parti di Berlusconi. Quanto agli altri suppongo che avranno seguito dei percorsi più o meno simili, anche se forse meno esemplari, ma in un paese in cui i deputati che non si sono fatti scrupolo di passare da uno schieramento all'altro si contano sull'ordine delle centinaia, almeno due, e non credo ci si debba stupire se 15 giornalisti rivendicano per così dire un ruolo di irriducibili del cambio di casacca. È certo però che hanno un bel problema, poveretti. Il torto di cui dicono di essere gravati non è semplicemente quello di aver avuto ragione, ma quello di averla avuta troppo presto. La loro adesione al polo risalirà senz'altro a tempi non sospetti, e visto che il polo è stato per 5 lunghi anni all'opposizione, ne sono stati ricambiati, è vero, con 5 anni di lontananza da governo e sottogoverno. E adesso che sembra il momento della rivincita si vedono superati in tromba da nuove legioni di postulanti e molti dei quali, immagino, avranno passato gli ultimi 5 anni al carduccio del potere olivista. C'è davvero di che farsi venire i nervi e chi vive questa esperienza può essere giustificato se firma dei documenti un po' ridicoli come quello che vi ho citato. Eppure esiste una logica cui chi cambia con troppa disinvoltura di schieramento non può davvero sottrarsi, e chi accetta dei Voltagabbana nelle sue file lo fa proprio perché sono tali e con la loro presenza garantiscono della sua capacità d'attrazione, magari farà anche un certo conto sulla possibilità di raccogliere qualche informazione riservata, ma questi sono entrambi vantaggi che si colgono all'istante e che all'istante, nel momento in cui il transfuga viene accolto, vanno sfruttati e si sfruttano. Poi, col passare degli anni, costui, il transfuga, diventerà un supporter come tutti gli altri e con il metodo di tutti gli altri andrà giudicato e ricompensato. E siccome tra le doti che di solito si prendono in considerazione per giudicare e ricompensare c'è anche quella dell'affidabilità, e il Voltagabbana per definizione proprio tanto affidabile non è, il rischio di finire nel limbo dei collaboratori e dei cortigiani inutili e quindi sgraditi lo si corre sempre. È doloroso, ma inevitabile. I nostri 15 antesignani preoccupati scrivono di non poter saltare sul carro del vincitore perché ne sono già le ruote motrici, e sarà anche vero, figuriamoci, ma il problema è appunto quello che in un carro le ruote sono in basso e non in alto. Quel manifesto in realtà non ha avuto un grande rilievo. Io ho visto soltanto la citata colonnina del Corriere, sono meno di 30 righe e niente di più, ed è un peccato perché la tragedia dei firmatari avrebbe potuto darla a pensare ai molti che in questi tempi incerti si stanno chiedendo se valga proprio la pena di restare dalla parte da cui sono state finora. Il saggio sa che i vantaggi di qualsiasi scelta vanno misurati sul lungo periodo. E quanto alle nostre 15 ruote motrici, l'unico consiglio che posso dargli è quello di giocare un po' d'audacia. Una bella capriola e opla, potranno ritrovarsi a pieno titolo nella sinistra. La sinistra è buona, sa perdonare. Certo, ritrovarsi nella sinistra è un rischio, nel senso che la possibilità che si tratti di una mossa vincente sembrano davvero scarsine, ma tanto ho l'impressione che a restare lì dove sono quei poveretti non ne ricaveranno un granché. Chi non risica, naturalmente, non rosica.